Baby, è un mondo super. Perché alla fine sono soltanto 1.300.000.000 le persone che non hanno accesso all'acqua potabile. Baby, è un mondo super. Perché il giro d'affari di un giorno delle nostre borse equivale al prodotto interno lordo di un anno dell'Africa intera. Baby, è un mondo super. Perché alla fine noi che siamo di qua, dal terzo mondo, ci permettiamo di dire, se la caveranno con la cultura. Beh, baby, è un mondo super, perché su questo pianeta ci sono più di 1.000.000.000 di analfabeti, uno ogni 6 abitanti. Ma è anche un mondo super perché ognuno di noi produce ogni anno 4 quintali di rifiuti solidi e più di 1 tonnellata di rifiuti gassosi. E perché in questo momento ci sono il 50% delle foreste tropicali che c'erano soltanto 50 anni fa. Uno dice, non fare il catastrofista. Tutto sommato ne avremo ancora fino al 2037. Poi ci penseremo, faremo un mondo senza foreste tropicali. Oppure vuoi fare il catastrofista soltanto perché in questo baby è un mondo super? Questa deforestazione ha prodotto la più grande estinzione di specie animali dal tempo dei dinosauri. Baby, è un mondo super. Bill Gates nostro, che non stai nei cieli e non capisci il perché e questa roba ti sta sul cazzo da morire, dacci oggi il nostro chip quotidiano. Amen.